America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. They today overrode your veto. That has never happened to you before. Your reaction? Well, I think it was a mistake. Barack Obama, l'avete sentito al town hall meeting di ieri sera, organizzato dalla CNN. Beh, direi che ci interessano due temi soprattutto. Il primo, il tema elettorale, perché Barack Obama ha dato un quadro dell'America che è l'America dei valori e l'America che conosciamo, come del resto aveva già anticipato in un discorso di alcuni mesi fa. È un'America che non coincide naturalmente con quella di cui ha la visione Donald Trump. Ma è l'altro tema, quello su cui Obama è stato provocato, che mi interessa di più, perché è davvero la notizia del giorno e la sua prima sconfitta in Congresso su un veto presidenziale. Sentiamo. Just moments ago, the US Senate voted to override President Obama's veto of a 9/11 bill by a vote of 97-1. Ecco, questa nella sostanza la notizia. C'è stato un consenso bipartisan, attenzione perché non ne vediamo mai, un consenso bipartisan al Congresso che ha umiliato la Casa Bianca. C'era un progetto di legge in discussione. Questo progetto di legge consente alle famiglie delle vittime dell'attacco dell'11 settembre di far causa, di portare in tribunale l'Arabia Saudita per chiedere danni, visto che, secondo costoro, sarebbe stata complice l'Arabia Saudita nella preparazione dell'attacco dell'11 settembre. Ecco, sono accuse pesanti, gravissime, non dimostrate, che magari sono state portate in avanti dalle famiglie delle vittime per, chissà, recuperare dei quattrini o comunque per questo sentimento di rabbia che ancora c'è, e lo abbiamo visto nel 15° anniversario dell'evento, appunto appena una ventina di giorni fa. Ecco, Barack Obama si era opposto a questa proposta di legge, aveva utilizzato il suo veto presidenziale che gli consente di bloccare una proposta di legge che viene poi rimandata in Parlamento e il Parlamento deve votare con una maggioranza superiore ai 2/3. Ecco, non era mai successo che un veto di Obama fosse stato superato da questa maggioranza dei 2/3 e in questo caso la maggioranza è stata schiacciante. Pensate, 97-1 al Senato, cioè quasi l'unanimità. Alla Camera la maggioranza è stata altrettanto forte, non unanime, però comunque parliamo di 348 voti a favore contro 77 contrari. Dunque, la prima notizia sul piano storico è che Barack Obama ha perso. La seconda notizia è che i parenti delle vittime dell'attacco dell'11 settembre potranno adesso far causa per danni all'Arabia Saudita, accusandola appunto di essere corresponsabile del più grave atto di terrorismo contro gli Stati Uniti d'America. Sentiamo Barack Obama. We're suddenly exposed to liabilities for all the work that we're doing all around the world. I'm concerned, and this is not just my concern. General Dunford, Chairman of the Joint Chiefs, said this is a bad idea. Secretary of Defense said it was a bad idea. Ecco, qui Barack Obama spiega perché è contrario a questa proposta di legge. Dice: ci troviamo improvvisamente nella condizione di essere vulnerabili in ogni tipo di operazioni, attività anche militari che stiamo portando avanti nel mondo. Questa è la mia preoccupazione, ma non è solo mia, lo pensano anche il segretario della difesa Ashton Carter, il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, il generale Joseph Dunford. In effetti sia Carter, segretario della difesa, che Dunford, il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, avevano scritto nelle settimane scorse ai senatori e ai deputati implorandoli di non votare per una legge che avrebbe messo a rischio non solo operazioni di intelligence in paesi stranieri, ma anche la vita di soldati schierati al fronte in quei paesi. Lo stesso naturalmente aveva fatto Obama, ma le pressioni dell'esecutivo non sono servite a nulla. Da domani le coalizioni dei parenti delle vittime, come vi dicevo, potranno passare all'azione. Do we really want it established that foreign countries directly responsible for financing terrorist acts are beyond the reach of justice? I don't think so. Ecco, qui parla Charles Schumer, senatore di New York. Dice: davvero vogliamo permettere a paesi stranieri che hanno avuto rapporti con il terrorismo di essere esenti dal giudizio della legge americana? Beh, non credo proprio. Quindi il secondo elemento storico è che si apre un nuovo capitolo in cui paesi stranieri sospetti di attività di collusione col terrorismo possono essere portati in tribunale in America. Ecco, una legge del 76 questo lo impediva. attribuiva immunità a paesi e governi stranieri contro cause in territorio americano. Ecco, questa modifica prevede che paesi stranieri possono essere portati in corte federale americana se si potrà provare che hanno avuto un ruolo in un attacco terroristico. Ecco, il terzo aspetto storico riguarda la possibilità di una rottura fra Stati Uniti e Arabia Saudita, con, attenzione, un'implicazione economica, perché l'Arabia Saudita ha già detto che per proteggersi da eventuali cause di questo genere sarà costretta a vendite massicce e rapide di attività patrimoniali che hanno in America. Parliamo di centinaia di miliardi di dollari di attività patrimoniali, quindi c'è anche una conseguenza economica in questo. Da sottolineare che poi Arabia Saudita e Stati Uniti erano già in un rapporto, come dire, difficile dopo l'accordo di Washington con l'Iran per risolvere la questione nucleare. Per Riyadh quell'accordo era una provocazione, visto che Teheran è il suo nemico numero uno. Ecco, la domanda di fondo è: ma che prove ci sono che l'Arabia Saudita era in collusione? Beh, non ci sono delle prove dirette, però un rapporto della commissione d'inchiesta dell'11 settembre aveva in 28 pagine messo in evidenza alcune possibili collusioni. Queste 28 pagine sono state secretate dall'amministrazione e rivelate soltanto alcuni mesi fa. E che cosa rivelano? Beh, che funzionari del governo saudita avevano incontrato o conoscevano alcuni dei terroristi che hanno attaccato l'America. Quindi li conoscevano, si parla di funzionari dei servizi segreti. È stato trovato un numero di telefono nelle agendine di uno dei terroristi che apparteneva a una società che amministrava la casa di Aspen dell'ambasciatore saudita a Washington, e parliamo del principe Bandar bin Sultan. Ci sono anche una gran quantità di riferimenti di importanti donazioni di membri della famiglia reale saudita a fondazioni che direttamente o indirettamente erano legate a Osama Bin Laden, Al Qaeda. Non dimentichiamo oltretutto che Osama Bin Laden era di origine saudita. Ecco, però il governo saudita, il regno saudita, aveva preso le distanze in modo totale da lui. Insomma, i giudici federali americani avranno una bella grana da risolvere, non solo con implicazioni economiche, ma con importanti implicazioni geopolitiche. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Barack Obama parte questa sera per Israele, per Tel Aviv, per i funerali di Shimon Peres. Grand'uomo, devo dire, l'ho conosciuto in varie occasioni, l'ex presidente israeliano, Nobel per la pace, morto all'età di 93 anni, un uomo che rappresenta il simbolo della speranza per il dialogo e per la pace, e ha continuato a lavorare per questo fino all'ultimo. Ci saranno anche Bill Clinton, John Kerry, insomma una gran quantità di statisti americani interverranno a questi funerali di un uomo per la pace. Dunque, a lui dedichiamo, di John Lennon, Give Peace a Chance. Everybody's talking about baggage and braggage and faggage, jaggage and this, that is a prism, is a kism, is a... Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!